Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, vi parla Daniele Biacchessi, Italia in controluce. È la seconda puntata odierna, quella che indaga oggi soprattutto sui temi della scuola. Infatti oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per Scuola in controluce. Scuola in controluce. È un mese particolare questo di febbraio, perché è proprio in questo mese che bisogna decidere in che scuola iscrivere il proprio figlio o la propria figlia. Parliamo delle scuole di tutti i gradi. Una scelta davvero importante questa, che in febbraio si trasforma in una specie di tour de force. Mamme soprattutto, ma anche tanti papà, che si sparano a tappeto open day a destra e a manca, colloqui con esperti e poi il passaparola fra genitori, fra chi quella scuola l'ha già frequentata, a tavola poi la sera grandi discussioni e dibattiti. Fin qui tutto bene, insomma, vuol dire che le famiglie e i genitori partecipano alle scelte dei figli, ne discutono insieme e questa è sicuramente una cosa positiva. Fa un po' più riflettere se a scegliere il proprio futuro è un ragazzo dell'ultimo anno di superiori che deve scegliere l'università, come sentiremo fra poco. Ma cominciamo dai ragazzi delle medie alle prese con le iscrizioni alle superiori. Quali criteri seguire? Come fare la scelta giusta o almeno provarci? Francesco Dell'Oro dell'ufficio orientamento del Comune di Milano. Guardi, io do sempre tre consigli ai ragazzi e anche ai genitori. Devono scegliere un corso che non li mandi in sofferenza, ma che consenta loro di vivere la vita di studente e di adolescente con impegno, ma anche con serenità. Perché questo è un dato importante che a volte noi adulti non riusciamo a cogliere. Il secondo consiglio è che, lo dico soprattutto agli studenti e alle studentesse, è questo: se scegliete un corso di studi, cercate di rispondere a questa domanda e noi adulti dovremmo aiutarvi in questo, sia come insegnanti che come genitori. Se scegli quel corso di studi, cosa ti appassiona, cosa ti interessa, cosa ti incuriosisce di quel corso di studi? E poi c'è una terza cosa rispetto alla quale una riflessione va fatta. Se scelgo quel corso di studi, l'ho compreso bene, l'ho capito bene, che caratteristiche ha, che materie prevede e soprattutto quante ore devo impegnarmi. Il limite dell'intervento dell'adulto a volte è questo, mi riferisco ai genitori. A volte non riusciamo a presidiare le nostre aspettative e facciamo pressioni indebite. Il limite degli insegnanti è quello di dare un consiglio orientativo, come dire, in negativo. Cioè utilizziamo dei criteri a volte nelle scuole veramente fuorvianti, cioè utilizziamo delle gerarchie molto opinabili. Quelli bravi li mandiamo al liceo, i meno bravi i tecnici, quelli che sono meno bravi ancora i professionali. E in questo modo noi trasmettiamo un'immagine della scuola terribile. Il consiglio orientativo invece dovrebbe valorizzare esperienze, stili cognitivi, approcci alla formazione diversi, insomma si dà un consiglio orientativo spesso a scuola stigmatizzando quello che il ragazzo non deve fare invece che valorizzare quello che potrebbe fare. Quindi da parte della classe insegnante ma anche da parte dei genitori un po' di errori si commettono, alla fine forse sì. Il consiglio è anche al ragazzo, insomma, di vedersela un po' con la propria coscienza, guardarsi davanti allo specchio e cercare di capire cosa gli piace di più, magari anche andando a visitare le scuole, no? Certo, l'incontro con i testimoni privilegiati a scuola, con il preside, con i docenti, ma anche con gli stessi studenti che già frequentano quelle scuole, per quegli incontri sono fondamentali. E i ragazzi hanno dei codici straordinari per interpretare quel corso di studi, a volte le fragilità di un adolescente, ma loro sanno cogliere, oltre alle caratteristiche di quel corso, di quella determinate materie, eccetera, anche il respiro pedagogico di quella scuola, la sensibilità, l'attenzione al percorso di formazione. I ragazzi e le ragazze sempre di più, ma in questo devo dire che anche i genitori incominciano a essere sempre più bravi, cercano di cogliere, di andare al di là delle leggende metropolitane sui vari istituti, ma di cogliere nei vari istituti se c'è un'attenzione, una sensibilità nel seguire i ragazzi nel loro percorso formativo e soprattutto nella capacità di affrontare magari il percorso di un ragazzo quando è in difficoltà. L'errore più frequente? L'errore più frequente da parte dei genitori è quello di non avere livelli di consapevolezza sulle caratteristiche dei ragazzi e di fare pressioni indebite. Faccio un esempio: se io ho difficoltà importanti in matematica, so per certo che quelle difficoltà in parte le devo ridurre, ma soprattutto so per certo quali sono i corsi che devo evitare. E invece qui proprio, non so, anche l'altro giorno, insufficienze gravi in matematica, e mio figlio cosa deve scegliere? Lo scientifico. No. dai consigli di chi sta facendo in questi giorni centinaia di colloqui e incontri a chi nel mondo della scuola lavora dall'altra parte della cattedra. I consigli ai genitori di Alessandro D'Avenia, scrittore ed insegnante in un liceo scientifico milanese. Intanto deve dimenticarsi del liceo che ha fatto il genitore, perché qualsiasi scelta si faccia, la scuola e i ragazzi sono totalmente cambiati. Quindi magari si pensa, dice: ah, mio figlio voglio che faccia il classico, voglio che faccia lo scientifico come ho fatto io. Ecco, non c'entra niente con quello che hai fatto tu, quindi questa è una prima cosa da azzerare. Credo poi sia un'ottima occasione per guardare un po' di più ai talenti, le capacità dei propri figli. Quindi più che dire vediamo dove va a finire, partiamo dal ragazzo. Secondo me uno dei grandi problemi dell'adolescenza di oggi è che noi pensiamo sempre agli adolescenti come oggetto, cioè come qualcosa di strano da studiare in laboratorio e a cui trovare una soluzione. Invece il bello è affrontarli come soggetto, cioè come persona capace di una potenzialità che deve ancora esprimersi. Allora io mi chiedo, i papà e le mamme sanno quali potenzialità stanno fiorendo dentro i loro ragazzi? Allora, in terza media, per esempio, ci sono i test di orientamento. Io farei molto affidamento su quelli perché danno un ventaglio di possibilità chiaro rispetto alle capacità dei ragazzi. Poi fare una bella chiacchierata con l'insegnante che insomma di cui ci si fida di più, che sa guardare meglio il proprio figlio o figlia per capire quali sono le qualità che sono emerse. E poi chi meglio di un papà e una mamma può vedere nella vita ordinaria dove si volgono gli occhi di questi ragazzi. E poi l'ultima cosa, andare a cercare il singolo insegnante. Non si può più pensare lo mando in questa scuola qui, lo mando in questa sezione qui perché hanno una buona fama. No, questo non esiste più, ma in questo le mamme sono bravissime con il passaparola, informarsi, capire lì dove c'è quel professore in gamba che ha un approccio educativo aperto, che oltre a sapere insegnare la sua materia è anche interessato alla vita dei ragazzi. Perché lo sappiamo anche per esperienza, che ciascuno di noi del proprio percorso di scuola ricorda quel professore, quella professoressa che è stato determinante. E allora andarsi a cercare appunto la persona di fiducia. Il maestro. Il maestro, esatto. Genitori dunque così presenti nelle scelte dei figli per la scuola superiore, così deve essere in effetti, perché parliamo di ragazzi di 13-14 anni. Genitori forse troppo presenti nelle scelte invece dei figli ormai alla soglia dell'università, tanto che la Bicocca di Milano ha deciso di organizzare proprio per domani un open day tutto dedicato a loro, a mamma e papà, come ci racconta Loredana Garlati, delegata del rettore per l'orientamento. Da un lato il genitore vuole fare la scelta giusta, nello stesso tempo a volte i genitori finiscono per interferire nelle scelte dei figli. La vostra sensazione è che i ragazzi siano scocciati di questa interferenza o comunque di questa partecipazione, oppure che si sentano in qualche modo più sicuri? Ci sono dei figli che cercano supporto nei genitori, cioè vogliono che il genitore li accompagni per decodificare poi insieme quelle informazioni che hanno ricevuto, quindi per avere un linguaggio comune tra genitori e figli che consenta un dialogo. In alcuni casi invece i figli vogliono venire coi genitori perché sia l'operatore a convincere i genitori che la scelta che il figlio sta facendo sia quella giusta, benché distante magari dalle aspettative o dall'orientamento del genitore. In alcuni casi noi abbiamo entrambe le situazioni, diciamo che a volte i figli proprio si rivolgono a noi nella speranza che noi riusciamo a far capire ai genitori qual è la soglia nella quale il genitore si deve fermare e che è giusto dare spazio invece a quelle che sono le aspirazioni, le aspettative dei propri figli. Allora, quali sono invece le domande che più spesso vi rivolgono i genitori? Beh, diciamo che innanzitutto le domande riguardano quale facoltà garantisca meglio le prospettive di lavoro, quale sia la scelta più giusta che dia garanzie di successo. Talvolta ci sono i genitori che accompagnano i figli e quando vengono a conoscere il contenuto magari dei test di ammissione per le diverse facoltà entrano in uno stato d'ansia e cominciano a dire: mamma mia, sono domande diverse da quelle che noi ci aspettavamo, dovremo fare una preparazione completamente diversa. In quel vogliamo fare la scelta giusta, dovremo fare una preparazione completamente diversa, in quel plurale, in quel noi, è evidente il coinvolgimento ma anche il pericolo di una sostituzione che invece noi vogliamo aiutare i genitori a capire, devono esattamente evitare. Quindi il pericolo che questi ragazzi non si sentano in grado di scegliere da soli esiste o no? Più che altro a volte è una preoccupazione dei genitori che ritengono che i figli siano ancora troppo piccoli per fare una scelta così importante, ma i ragazzi sono in grado di scegliere. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, questa come tutte le altre puntate le trovate su radio24.it, le potete scaricare in podcast, siamo su Facebook, pagina, gruppo dove potete trovare tutti i temi della settimana, su Twitter, il nostro blog su alcune vicende di oggi e del passato tramite mail controluce radio24.it. Torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.